ci sono Uomini di Mare, Uomini insieme di mare. A Sutherland Squad, Sutherland, un po' tutta l'Europa che rappresenta, o no? Senigallia, Baglia, Maglia, col suo splendore ti tiene sveglia, sti tipi fan troppo rumore, mi meraviglia, ci si ripiglia con questo calore, passano in un attimo sul treno le ore, e che fatica mai sarà uscire dalla propria città, scambiarsi un po' della propria realtà, qualcuno la definisce pura irrazionalità, un'ulteriore conferma della follia che incontro incontrando Maria, riscopro ogni giorno che non sono l'unica folle, né slilato Fabri Raggio, gente con cui ci si allucina, scattano le molle, ci vedrete nel nuovo millennio aizzare le folle. Per ora siamo e restiamo genio incompreso. Spiegami un po' perché non so per chi ci hai preso. Gente che fa per il gusto di fare Sutherland Squad più Uomini di Mare. Beh, vedi, oggi come ieri ho la stessa fotta, ancora in piedi, la mia condotta non da Mary. Ti zero crediti, ricrediti, avrai di che star meglio. Io me ne foto del tuo modello tipo Kiko, con l'assetto diretto dalla tua scrivania. Cino in difetto, completamente in avaria. Varia questo flow dalla mia alla tua visuale. Inusuale questo stile con le spine a fare non male. Fare da star male a cagare, paure gare. Chi l'India stringe i denti, chi se la passa ad abbaiare. Io pa' fare per ore nella mia clean green. Ho versi incomprensibili, simili a sibili e simili sillabi. Alibi strani, se domandano che è per le mani. Uomo. Che ho per le mani, viaggi insani, soldi immaginari, non marginali, progetti originali, nali. Nesli Rice, teste mobili. Assemble stand, in gioco termini che contengo. Intendo il meglio che non passi, a suo effetto attendo. Avendo visto anche il pessimo in cui volendo arriviamo. Chiediti di tuo cosa abbiamo. Faccio disfio valigie, crisi esige, salvo il culo in parte grigie, da sette camicie, vigi che cresce, ci accresce, papà figlies come spilli, nubi che intossicano nulli, falsi bulli, più belli di fronte a sinceri ribelli. Assemble stand, in gioco termini che contengo, intendo il meglio che non passi, a suo effetto attendo, avendo visto anche il pessimo in cui volendo arriviamo, chiediti di tuo cosa abbiamo. Rifaccio e disfo valigie, glisse esige, salvo il culo in batte grigie, da sette camicie, figi che cresce, ci accresce, poco filis come spilli, nubi che intossicano nulli, falsi bulli, pivelli di fronte a sinceri ribelli. Teste mobili, Shazam. Va a stare bene nel terzo millennio che è il nostro proprio. Teste mobili e la merda.